Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi comincio velocemente da una mail, arriva da Osimo. La prego, scrive Roberto Virgini, solleciti i vostri tecnici il secondo giorno che non si prende Radio 24, mi sono perso la puntata di ieri, oggi non lo sopporterei. Grazie della fiducia. Roberto, che poi si dilunga un pochino, ma è carina questa. Ieri ne ho approfittato per ascoltare la concorrenza e non sto a citare la testata radiofonica. Comunque la trasmissione che ha vinto il premio di miglior trasmissione sportiva radiofonica del 2008. Beh, è come se avessero dato il pallone d'oro a Rise, ovviamente voi siete Cristiano Ronaldo. Grazie. Grazie Roberto, continuo dicendo che la rubrica di calcio internazionale è spostata a domani e quindi domani la solita panoramica curata in collaborazione con Fabio Tavenni. Ci sarà spazio più tardi per i vostri interventi in diretta al consueto 800 24 00 24, e do il bentornato sinceramente affettuoso al professor Ottavio Bianchi. Buongiorno Ottavio. Buongiorno Gigi. Ottavio, posso andare in ordine sparso, che ho preparato un po' di argomenti? Come vuoi. Come voglio, grazie. Allora, parto dal Napoli per ragioni sentimentali, per competenza tua territoriale, perché mi sembra che il progetto prenda davvero corpo. Ma il Napoli si sta comportando bene da qualche anno a questa parte, raggiungendo meritatamente sul campo, senza buoni, la promozione prima, le due promozioni prima, adesso l'anno scorso ha fatto un buon campionato, quest'anno lo sta ripetendo. Se continua di questo passo, penso che nel prosieguo dei prossimi anni possa tentare il colpaccio. Che è l'obiettivo evidentemente della società. Il colpaccio come? Nel senso che oggi esistono molti modelli di sviluppo calcistico, no? C'è il modello, non so, diciamo, grandi nomi o grandi firme, senza guardare una gara di carta d'identità, tipo Milan, e poi poi ne parleremo. Però lì non vince, eh. Così non ti risulta che si vinca. No. Anche Real Madrid alcuni anni fa vinceva così. Senti, ma quindi una società come il Napoli, che non ha bisogno dei tuoi consigli, per carità, però insomma giusto perché se ne parla, e magari invece qualche idea griffata Ottavio può anche essere preziosa. Si va sul territorio, si va sui giovani, si pesca come, si inserisce un rinforzo a stagione, si cerca di ampliarla, come procederesti? Ma di solito ormai il calcio non è solo un calcio locale, direi nazionale come l'Italia, ma ormai è un calcio internazionale. Ci sono due possibilità: o hai grandi possibilità economiche per i ritorni televisivi tipo Manchester, Real Madrid, Inter, chi più ne ha più ne metta, oppure devi crearti lo zoccolo duro con dei giocatori giovani in casa, per poi mettere dentro dei fuoriclasse, se riesci ad ottenerli, a ingaggiarli prima degli altri, perché se li prendi a fine carriera diventa più difficile. Questa seconda situazione vedo che la stanno sviluppando molto, e anche squadre con grandi possibilità economiche tipo il Barcellona. Sì. Barcellona acquista giocatori anche molto giovani e li fa maturare nel proprio vivaio per poi farli giocare in prima squadra, non è che poi li mandano via, come succede spesso nelle nostre squadre di prima fascia in Italia. Certo. Li pagano molto, tipo l'Arsenal per esempio, se avrai visto, la seconda linea della squadra dell'Arsenal è composta da giocatori veramente molto ma molto interessanti, giovanissimi, che arrivano da tutte le parti del mondo. Certo. Io sono per questa seconda soluzione, perché se non hai già un organico tipo l'Inter, che ormai l'Inter ha raggiunto un organico così importante da poter nel prosieguo degli anni cambiare a ragion veduta qualche pedina del mosaico, non è che deve cambiare tutto improvvisamente, perché se devi cambiare tutto improvvisamente puoi avere anche delle grandi possibilità economiche ma non trovi giocatori all'altezza, perché gli altri non te li danno chiaramente. Ho fatto bene a dire all'inizio che si andava in ordine sparso, perché pensavo di seguire una scaletta, invece adesso mi hai già suggerito una deviazione, che è questa. Il Barcellona, indipendentemente dal fatto che adesso sia Guardiola a guidarlo, e prima fosse Rijkaard e prima ancora Cruyff, ha una sua cifra di gioco. Però con il fallimento dello scorso anno, con l'arrivo di Guardiola, ha riprivilegiato la cantera, cioè il vivaio. La Juventus non ha ancora una linea di gioco così collaudata, così spettacolare, così divertente, perché sappiamo da che disavventura sia reduce. Però la sensazione è, dopo aver visto Juventus-Milan, che questa politica della, la si chiama cantera, qua chiamiamola il vivaio, o comunque dei giovani, che sembrava ormai antistorica in Italia, invece possa pagare. No, sicuramente paga. Io poi sono simpaticamente attratto da queste situazioni. A me ma è una mia situazione personale, non, squadre che hanno 30 giocatori stranieri nazionali, non anche se vincono, non mi dicono niente. Non ti coinvolge. A me piace molto che nell'organico di una società anche grossa ci siano molti giocatori che sono cresciuti nel vivaio o nella cantera. Se vai a vedere tutte le grandi squadre, i grandi periodi delle squadre di successo, vedi il Manchester, vedi il Barcellona, vedi lo stesso Real Madrid di tanti anni fa, vedi il Boca Juniors, vedi il River Plate, vedi il San Paolo, vedi il Milan stesso, dei Maldini, dei Tassotti, erano sempre squadre che erano formate con lo zoccolo duro, ma con giocatori importanti cresciuti nel vivaio. E di questo ormai da sempre, non è che lo diciamo tu e io, ma ormai l'inversione di tendenza, la tendenza è quella di andare verso questo sviluppo, questo tipo di impostazione societaria. Torniamo alle squadre cosiddette di seconda fascia, io le chiamerei di prima fascia bis. Io pensavo di sottoporne alcune. Un ascoltatore che si firma Ale dice: la Fiorentina è sicuramente una squadra del futuro e forse un po' anche del presente con questa politica dei giovani. Tu condividi? Sì, ma poi anche gestita bene, è un allenatore molto bravo. Quest'anno ha avuto dei problemi per l'impatto con la Champions League, che tu sai che se non sei, sì, non sei abituato ad affrontare due partite settimanali, anche se all'inizio di questa importanza campionato e Champions, certo, puoi avere delle conseguenze negative. Loro sono usciti, ma sono usciti anche abbastanza bene, non rifiutando la propria filosofia di gioco. Indubbiamente la Fiorentina fa parte della cosiddetta, ma io la direi prima fascia, perché l'unica, sì, che fa la prima fascia è l'Inter, sì, sono tutte seconde fasce. È vero. No, è prima fascia a pieno titolo. C'è qualche... lì diciamo che fino a fine ottobre, primi di novembre, sembrava addirittura un campionato che potesse essere rivoluzionario, e per le prime 10 giornate circa lo è stato. Poi ovviamente le gerarchie si sono definite meglio. Qualcuno è riuscito ad andare ancora notevolmente avanti, forse più di quanto avesse sperato. Parlo del Genoa, forse della stessa Atalanta, che poi ci arrivano col gioco, soprattutto l'Atalanta, a parer mio. Qualcun altro invece, tipo l'Udinese, si è fermato sul serio. Che cosa ti ha sorpreso in positivo e in negativo di questo gruppo? Il gruppo è uscita in maniera abbastanza clamorosa l'Udinese, che nell'inizio del campionato era quello che sviluppava anche con quella forza offensiva che si ritrova. È riuscito a sviluppare un gioco piacevole con risultati. Non dimentichiamo però che loro, come il Napoli, hanno cominciato prima il campionato, prima la preparazione, e questo poteva essere una giustificazione. Però vedo che il Napoli ha cominciato anche loro hanno cominciato prima, ma continuano a comportarsi molto bene. Sicuramente l'Atalanta è una sorpresa piacevole, però l'Atalanta ci ha abituati Ecco, l'Atalanta è una delle squadre che allevano anche allevano calciatori, ma li fanno anche giocare nella loro squadra. È sempre stata così ed è, tu vedi che ha comunque successo sia in campo sia fuori, perché fuori vuol dire il bilancio, un bilancio attivo al giorno d'oggi, la cosa equivale a uno scudetto. Non c'è dubbio. Le altre squadre, la Lazio per esempio, che aveva cominciato molto bene, anche lei ha i problemi dell'Udinese. Ecco, le due squadre che sono partite molto bene e che non stanno confermando, per questioni anche di infortuni, perché su organici non così numerosi, se ti mancano i giocatori più importanti è chiaro che hai dei problemi di risultato. La Roma è uscita subito, e ormai la Roma non può più agganciarsi, sì, potrà agganciarsi probabilmente nelle zone alte, però era l'antagonista ufficiale dell'Inter. La Juventus sta facendo molto bene, ma ritengo che stia facendo il massimo delle sue possibilità. Piacevolmente la sorpresa della Juventus è l'inserimento di questi giovani che nel futuro daranno il là, secondo me, ai successi di questa società. È quella più futuribile, no? Per quello che si sta vedendo, forse appunto con la Fiorentina. Anche se l'Inter ha ancora dei grossi margini di vantaggio nei confronti di queste squadre. Certo. Senti, in zona salvezza, così completiamo questo quadro, si sono staccate nettamente 5 squadre e hanno un bel po' di punti da recuperare rispetto a quelle che stanno sopra. Dopo 16 giornate, cioè a quasi metà del torneo, però quasi, si può già dire che chi è davanti ne ha lasciate 5 a lottare per 3 posti oppure c'è tempo? Ma queste hanno dei problemi superiori alle altre, però un campionato con sai, quando c'erano i 2 punti solo era una cosa, adesso con i 3 punti ti puoi ancora agganciare. Poi vedo anche per esempio domenica il Chievo non ha rinunciato, si è comportato bene, altre squadre si stanno, per esempio la Regina, se non avesse avuto il passo falso di domenica si era riagganciata anche lei. Io direi che ancora presto per la zona retrocessione, dove comunque statisticamente, curiosamente, tutte e 5 queste squadre hanno cambiato allenatore, perché l'aveva già cambiato il Chievo, il Lecce, il Lecce no, Berete è l'unico che si è salvato, chiedo scusa, il Bologna, il Torino e stamane ufficialmente la Regina con il passaggio da Orlandi a Pillon. Andiamo in onda aggiornando anche queste notizie di maltempo che cominciano a riguardare anche lo sport. Per esempio la Roma è stata costretta a annullare l'allenamento di stamattina perché c'è Trigoria alla gatta, a forza di temporali e di piogge continue e interrotte, il centro sportivo di Trigoria è allagato ed è stato annullato l'allenamento di stamane. A Ottavio Bianchi vorrei sottoporre adesso un argomento assai più trasversale, che non riguarda una squadra piuttosto che un'altra. Ed è questo: domenica sono stati segnati 41 gol. Non accadeva di passare i 40 gol da 3 anni e mezzo circa, erano stati 43 in una delle ultime giornate del 2005, sicché si è molto celebrato questo numero, perché è ovvio che è il gol, insomma, il momento più spettacolare, eccetera, eccetera. Però insomma, io di questi 41 ho provato a rivederli un po' tutti nell'altra chiave, cioè nella chiave difensiva, quella che una volta era il marchio di fabbrica del calcio italiano, e cioè per l'appunto l'organizzazione difensiva, la marcatura, la solidità, la casa che nasceva dalle fondamenta, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto per esempio, parliamo di una squadra di vertice, ho visto la difesa del Milan prendere in 7 minuti 2 gol di testa agli avversari, lasciandoli staccare in libertà nell'area piccola. Ho visto una squadra invece che lotta per la salvezza, il Torino, incassare 5 gol in 31-32 minuti. So che oggi le comiche, che credo che sarebbe l'etichetta. Cosa sta succedendo? No, meglio, cosa è successo da tempo alla scuola difensiva nazionale, Ottavio? A parte che posso dissentire una cosa, che sì, non c'è un'organizzazione difensiva italiana. La situazione difensiva è internazionale, perché se tu vai a vedere le squadre a livello internazionale, appena avete un allenatore che è venuto in Italia, che occupa le prime pagine dei giornali e ha detto delle cose che dicevano i nostri allenatori 50 anni fa, che tu conoscevi molto bene. Quando non hai la palla dobbiamo andare a prenderla più in fretta possibile, quando l'abbiamo noi tu la puoi parlare in triestino, certo. La puoi parlare, la puoi attaccare più in fretta possibile, che sono state delle novità in assoluto, l'hanno detto in prima pagina i più grandi giornali. Sì, no? Sì, sembrava è normale una riscoperta dell'acqua calda. Certo. Non è che ce l'ha solo i 4 o i 3 o i 2 a secondo che giocano, quelli che giocano in difesa, ma appena non hai perso la palla tutti, compreso il portiere, devono entrare nella mentalità difensiva. Cosa vuol dire? Mettere in difficoltà l'avversario, fargli perdere la palla più in fretta possibile, o perlomeno farla giocare, come si dice in gergo, in maniera sporca. E questo evidentemente, a parte che domenica c'erano i campi in quella maniera, sì. Sai che se non anche lì è un'educazione di stare in campo, quando ci sono i campi in questa maniera te lo insegnavano da bambino, sì. Come giocare la palla, non giocarla a rasoterra, giocarla sull'uomo, tutte le cose che facevano parte, che fanno parte del bagaglio del vivaio, dell'ABC del gioco del calcio. Ora, andando in giro per il mondo, si vede che gli unici che stanno sottovalutando questa faccenda evidentemente siamo noi, perché c'è un grosso equivoco quando ti parlano di zona. Ti dicono: ah, io marco zona. Cosa vuol dire marcare zona? Non marcare l'uomo nei 16 metri, vuol dire invece che marcare a uomo nella zona, che è ben diverso il concetto. Ecco perché prendi i gol da fermo sui calci d'angolo, sui calci di punizione, che erano prendere, farsi rimontare 3 gol, prendere 5 gol in quella maniera, voleva dire nel tempo passato, il nostro tempo, caro Gigi, essere esonerato immediatamente. Sì, la sera stessa. Sì, sì, questo non per carità, oggi è un altro calcio, quindi non, in questo non c'è nulla di riferito personalmente a chi che sia, ma è chiaro che una squadra che in casa sta vincendo 3-0 e manca mezz'ora alla fine e subisce 3 gol di quella natura, come è capitato all'Udinese domenica per esempio, è assolutamente imbarazzante. Ma allora tu ci hai appunto fatto un lungo excursus e hai introdotto l'argomento e il tema. Hai detto anche che è un problema internazionale, non soltanto italiano, questo è vero, però la grande scuola difensiva degli anni, diciamo del secondo dopoguerra, è stata soprattutto quella italiana, quindi fa un pochino più specie qua. Come diceva il buon Pesaglio. Gli stranieri ci hanno rubato l'idea, perché loro lavorano sull'organizzazione difensiva, nel senso che tu vedi anche il Barcellona, che è la squadra del momento, vai a vedere, appena perdono il possesso di palla in zona 1, vuol dire in zona d'attacco, se i giocatori che hanno terminato l'azione d'attacco stanno fermi ad aspettare oppure vanno a riposare in una zona del campo ben studiata a tavolino, dove così non ti possono attaccare in maniera verticale. Certo. Questo comunque non è da adesso, è da sempre che è stato così. Che sì, poi sì. Tu giochi in una formula e non giochi in un'altra, se tu arriva un tuo giocatore ed è libero nell'area piccola, tu lo devi marcare a uomo, non lo puoi lasciare i 2 metri. Certo. Perché se tu lo fai saltare da solo, ancora io posso fare gol. È difficile, molto difficile. Con le tue ginocchia scricchiolanti. Sì. Senti, Ottavio, dopo racconterò quella di Pesaula che ha introdotto così splendidamente, perché è uno dei più belli aneddoti della storia del calcio, a parere mio. Comunque, chiudiamo con l'Inter in questo senso. Tu hai già detto la forza, la cosa, la superiorità, poi insomma non... basta anche avere gli occhi per vedere, perché però ecco, lo scorso anno si facevano un po' questi stessi discorsi, perlomeno per quanto riguarda il campionato. In Europa era andata anche meglio l'Inter, e con avversari comunque non irresistibili, ma un tantinello più provanti di quest'anno. Poi 2-3 infortuni, insomma, queste cose che oggi nel calcio succedono con sempre maggior facilità, il nuovo anno si aprì con l'inizio di una crisi che poi rischiò seriamente di compromettere anche il cammino. Tu vedi dei sintomi di questo genere in prospettiva o quest'anno ti sembra che in campionato la squadra sia più solida? Anche l'anno scorso Gigi, è stato così, hanno avuto una flessione loro, ma all'interno non è che gli altri abbiano fatto. Hanno dato la possibilità alla Roma di andare avanti strada facendo, di avvicinarli, però era talmente elevato il distacco che nessuno pensava all'aggancio. Quest'anno lo strapotere fisico, tecnico e organizzazione societaria fa sì che, almeno, però sai, questo è il mio punto di vista, fa sì che l'Inter sia ancora nettamente favorita. Il problema dell'Inter può essere solo all'interno, non so, qualche infortunio, qualche beghe, non so, che può capitare a tutte le grandi società. Ma mi sembra che, anche perché la Juve sta andando al massimo, non penso che possa accelerare. Sì, poi dopo avrà la possibilità di recupero di qualche infortunato, ma l'organico dell'Inter è ormai ha la possibilità di sostituire quasi tutti. Va bene, Ottavio, io oltre a ringraziare a nome anche degli ascoltatori direi che ormai siamo in un'epoca in cui gli auguri di buon Natale e buon anno diventano obbligatori. Grazie anche a te. Grazie Ottavio, a presto. Ciao, a presto, allora, visto che anche qualche ascoltatore sollecita, quello di Pesaola è uno degli aneddoti storici. Pesaola era un allenatore che in certe situazioni, come usava allora, era un difensivista spinto. Quell'anno allenava il Bologna ed era un po' rimproverato dalla stampa, dalla critica locale, eccetera, per qualche eccesso difensivo. Allora promise un giorno, il venerdì o sabato per l'ultimo allenamento, promise partendo alla volta di Bergamo che sul campo dell'Atalanta il Bologna avrebbe attaccato dal primo all'ultimo minuto. Finisce la partita finisce 0-0, catenaccio gigantesco del Bologna che la metà campo l'ha passata di rado, e allora lo stesso cronista si presenta sotto il naso a Pesaola, lo stesso che ha ricevuto la promessa e l'annuncio e che l'aveva pubblicato sul giornale con grande evidenza, e gli dice: Pettisso, ma com'è che lei ci aveva detto che il Bologna avrebbe attaccato tutta la partita e ha attaccato soltanto l'Atalanta? E la battuta l'avete sentita Ottavio Bianchi, perché ci ha rubato l'idea, rispose Pesaola. Enrico dalla provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo riallacciarmi un po' al discorso iniziale del signor Bianchi riguardo i giovani, tanto di cappello al Barcellona, che indubbiamente è una grande società e sicuramente gli investimenti sui giovani li fa da tempo, da anni, anche se aveva dei grandi nomi e ha dei grandi nomi. Mi risulta che in Italia l'unica società che destina qualche briciola del suo dei suoi fondi al vivaio sia effettivamente la Juventus, perché le do alcuni dati. Dunque, mediamente la Juventus negli ultimi anni ha destinato fra i 6 e i 7 milioni di euro al vivaio, dai giovanissimi fino alla primavera. La seconda in classifica come entità di investimenti è distante circa 3 milioni di euro, per cui non c'è da sorprendersi che, anche se è un discorso futuribile, chiaramente il vivaio della Juventus possa sfornare dei giocatori come quelli che vediamo. Io non conosco queste cifre, Enrico, e partendo dal presupposto che siano attendibili la ringrazio di questa ulteriore documentazione. Sono molte altre le società che sul vivaio si reggono, citava l'Atalanta del grande Mino Favini prima, Ottavio Bianchi, ma il Brescia, il Lecce. Potrei citarne molte altre ancora. La tendenza indubbiamente è stata in questi anni quella di smobilitare o comunque di ridimensionare i vivai, una tendenza antistorica, e la Juventus a un livello molto alto, al massimo livello possibile, lo sta dimostrando, speriamo sia un segnale. Lo ha dimostrato in Europa a un livello più alto ancora, anche dal punto di vista della qualità, il Barcellona al momento, e Ottavio prima ha citato un sacco di altre società nel mondo. Beppe Indelicato scrive: sembravate due amici al bar, lei e Ottavio Bianchi. Beh, non eravamo al bar perché lui stava a Bergamo, io sto qua in studio a Milano, ma siamo amici da un sacco di anni e quindi credo sia inevitabile che questo passi, no? attraverso i microfoni. Vi dicevo dell'esonero di Orlandi, l'allenatore della Regina, dell'ingaggio di Pillon, che è ufficialmente il nuovo allenatore, in questi minuti viene ufficialmente presentato. Pillon ha 52 anni, è veneto, ha allenato Genoa, Padova, Pistoiese e Ascoli, ottenendo con il Chievo i risultati migliori nel 2005 con il settimo posto finale, la qualificazione all'UEFA. A proposito di palchine che saltano, e partita anche quella di Paul Ince in Inghilterra, esonerato dal Blackburn. E poi ci sono varie altre notizie di giornata, ci sono i vostri interventi all'800 24 00 24, preceduti da molti messaggi. Questo è carino, Michele dice: non siete mai contenti, fino a 2 settimane fa vi lamentavate per i pochi gol, adesso che ci sono si va a cercare il pelo nell'uovo con le difese. Ma guardi Michele, A, non ci lamentavamo allora, B, non stiamo lamentandoci oppure trionfalizzando adesso. Se però lei, insomma, di almeno 10-15 gol visti nell'ultima giornata tra sabato e domenica mi parla di pelo nell'uovo, beh, insomma, io non vorrei averla come difensore nella mia squadra, ecco, come minimo. Tocca a Marco da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo parlare del fatto dei turni, di come copiamo male noi all'estero, nel senso che abbiamo copiato la Coppa Italia inglese, che però purtroppo non siamo stati capaci di fare allo stesso modo, cioè le squadre grandi che entrano forse troppo tardi giocano le partite secche in casa, mentre da loro vanno nei campetti e portano il calcio nelle piccole città, e in più anche per una parità, diciamo, sportiva devono andare a vincere in trasferta a casa della più debole, classica mentalità inglese. Ne approfitto anche per salutare un amico che anche se tiene per la Fiorentina, che si chiama Infino, volevo un suo parere in merito. Grazie, ma sì Marco, è una questione di formula, ma è una questione anche di spirito soprattutto, non si riesce a far entrare nel cuore del pubblico il fatto che la Coppa Italia è un trofeo, può essere un trofeo importante, cioè può essere un trofeo di primissimo livello. In Inghilterra lo è, naturalmente, in Spagna non lo è come in Inghilterra, però quasi. In Francia, per esempio, la Coppa di Francia interessa già molto meno, da noi vediamo che interessa meno ancora, quindi cosa vuole che le dica? Luciano La Biella scrive: molto meglio una partita finita 1-0, magari con un gol d'autore, piuttosto che un 3-3 tipo Udinese-Lazio. Cioè, a chi vuole alti punteggi consiglio il basket, conclude questo Luciano da Biella. Da biellese quale sono, e così rispondo a un altro ascoltatore che domandava le mie origini, mi riconosco molto in questa battuta finale. Io sono d'accordo con lui, poi capisco che faccia invece più spettacolo e che certamente regali più emozione una partita che finisce 3-3. C'era il paradosso breriano famoso, no? Secondo cui la partita perfetta era quella che finiva 0-0. No, non arriverei a questo, però mi sembra che, se non altro per il gusto di conversare, ci stia un distinguo tra tanti gol, magari tutti bellissimi e tutti irresistibili, e invece, come è capitato la scorsa domenica, disegno un pochino diverso. La media attuale italiana, questo lo ha pubblicato ieri 24 minuti, che come sapete è il pomeridiano gratuito del Sole 24 ore in distribuzione a Milano e a Roma. L'Italia è salita a una media gol per partita di 2.47, la più alta in Europa è quella tedesca, 3.02, seguita dalla Spagna 2.92. Tocca a Bruno da Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, le volevo chiedere fare questa domanda a proposito degli arbitraggi, in particolare premetto che seguo poco ultimamente, ero più appassionato prima delle trasmissioni sportive, sì. Però ieri sera ho guardato solo per pochi minuti la moviola per quanto riguarda la partita Juventus Milan. Per quanto riguarda il fallo di mano di Seedorf in area, la posizione dell'arbitro, diciamo, era quella ideale, no? Non era coperta al suo visuale. E mi domandavo, quindi è un po' inspiegabile, diciamo, la sua decisione, però la mia riflessione era che probabilmente lui nell'intervallo, o forse tutti gli arbitri nell'intervallo, sanno come è andato il primo tempo, e quindi che il gol di Del Piero, o meglio il rigore su Del Piero, c'era ma non ma era in fuorigioco. Quindi è possibile che ci sia questa spiegazione, cioè compensare l'errore fatto precedente? Non glielo so dire, Bruno, sinceramente non glielo so dire. Io, io trovo ormai incredibile nel 2008 che si possa al lunedì sera proiettare una moviola su episodi vecchi di 24 ore e soprattutto che si possa vederla, seguirla e discuterci su. Questo è questo il salto di qualità che non riesco più a fare, per mia fortuna, sia ben chiaro. Una mail appena arrivata, firmata Andrea. Desideravo fare una considerazione sul calcio come spettacolo. Io sono uno spettatore innanzitutto e solo molto dopo un tifoso. Partendo da questo presupposto, scrive appunto Andrea, non dico che non mi importi vincere, ma preferisco lo spettacolo. Detto questo, non mi esaltano i giocatori fisici, quindi quasi tutta l'Inter, o il centrocampo della Juventus. Preferisco il fraseggio, vedi Roma e Milan. In generale si ammira la Spagna, dove c'è il gusto per la giocata. Spagna, dove non a caso Capello ha vinto una Liga, ma è stato fischiato per il suo calcio non divertente. Non le pare che continuare a porre l'accento su come costruire una squadra per vincere porti a considerare la componente spettacolo su di un piano troppo nascosto? Certo che lo penso, Andrea, e sono al 95% d'accordo con tutto quello che lei ha scritto. Tocca a Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sono collegato tardi oggi nella mia ora di cultura sportiva, sarò breve. Allora, non è la prima volta che la chiamo, ho sentito la copertina, credo si chiami, del suo collega di domenica sera, o forse lunedì, dove parlava di quanto sia determinante Ibrahimovic per l'Inter, diciamo era un po' contrario perché suggeriva provate a togliere Amauri alla Juve. Beh, volevo solo sentire il suo parere, perché Amauri l'anno scorso la Juve non c'era e la Juve ha avuto il capocannoniere e il vice capocannoniere. E Ibrahimovic invece c'era l'anno scorso a Parma, quando l'ultimo quarto d'ora ha fatto vincere lo scudetto. Volevo solo il suo parere. Ma non mi appassionano granché questi paragoni a distanza sull'incidenza, che poi sono sempre impropri, perché stiamo parlando di squadre diverse, di caratteristiche diverse. Mi limiterei a dire che insomma, a dire quello che basta avere gli occhi per vedere, cioè che quest'anno Amauri ha certamente un'incidenza decisiva nel cammino della Juventus e che Ibrahimovic ne ha una ancora più decisiva, perché comunque Amauri è un giocatore che dà una grande respiro e una grande profondità alla squadra, e questo è oggettivo. La personalità di Ibrahimovic è ancora superiore, poi Ibra ha qualcosa in meno di senso del gol rispetto ad Amauri, perché la differenza qual è? Che anche Amauri segna gol belli o quasi belli come Ibrahimovic, parliamo delle gemme assolute, delle vette, però Ibrahimovic non segna i gol sporchi o comunque i gol i gol di routine invece che Amauri ha nel repertorio, quindi sono due giocatori di caratteristiche diverse da questo punto di vista. Notizie dell'agenzia, Ancelotti ridimensiona la pubalgia di Kakà e dice che il brasiliano giocherà già domenica. Da Parigi invece, anzi da Lyon, Govou che è un centrocampista di destra, mi pare anche una volta si diceva alla destra del Lyon, della nazionale francese, fermato nella notte di domenica dalla polizia per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico 5 volte superiore al limite consentito dalla legge. L'han beccato a Parigi alla fine di a Lione, alla fine di Lione Olympique Marsiglia, alla fine non è che aveva un tasso 5 volte tanto per aver bevuto il tè caldo come suggerisce Canessa, finita la partita aveva girato un pochino per i locali e aveva esagerato. Mondonico torna alla Cremonese, lo hanno appena presentato, è stato licenziato stamane Iaconi che guidava appunto la squadra, ed è non so che numero sia di ritorno di Mondonico alla Cremonese, ma certo è un numero abbastanza alto perché è la sua società di sempre, insomma è una rimpatriata in piena regola. Tocca a Carlo, collegato dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma volevo fare alcune considerazioni rispetto al modo di esultare da parte dei giocatori. Sì. Io credo che domenica scorsa all'Olimpico ci sia stato il peggio del peggio, anche cose buone, eccellenti. Il peggio, manco a dirlo, Vucinic, demente, stop. Il meglio lo vedo verso il figlio di Conti, perché il modo di esultare è stato genuino e in qualche modo io l'ho letto come il voler dire: io che vengo dalle giovanili della Roma gioco con questo cuore e non ce l'ho con voi, esulto per il bel gol. E in questo senso ho visto anche un bel gesto da parte del padre, che non ha confuso gli aspetti professionali con la Roma, con il ruolo da genitore. È vero, è vero, questo è vero, è vera tutto quello che ha detto lei, la prima, la seconda e anche la terza parte. Poi Brunetto, per la verità, che era stato così sobrio, no, sul gol del figlio, ha un po' sbracato correndo sotto la curva a riaccogliere Vucinic in mutande, o forse aveva già rinfilato le braghe, però insomma Bruno è un cuore di Roma e credo che anche questo piccolo eccesso da ultra, pacifico e civile, intendiamoci, possa ampiamente essergli perdonato. Hanno scritto e telefonato in molti su questo episodio di domenica. Per esempio Giulio Torelli scrive: la visione di un'esultanza come quella di Vucinic, una mail ricevuta stamane, credevo di aver visto dopo i balletti di Trenini il peggio possibile, ma queste sono buffonate che mi chiedo quale gioia possano rappresentare. Penserei che una volta i giocatori per festeggiare si stringevano la mano per complimentarsi con l'autore del gol. E poi questo ascoltatore, ripeto Giulio, aggiunge: si potrebbe pensare che sono un po' avanti con l'età, invece ho 33 anni. Beh, meno male, 33 anni di rara maturità. La conferenza stampa di Collina di ieri, quando gli hanno chiesto che sanzione avrebbe ricevuto Vucinic, lui ha allargato le braccia e ha detto: sentite, sinceramente, leggo dall'agenzia, non avevamo mai pensato che ci si potesse levare anche i pantaloncini, è quello che dicevo ieri io. Cioè la fuga in avanti della demenza puoi solo rincorrerli, per fortuna, e non precederli. Comunque Collina ha proseguito: per analogia, essendo i pantaloncini un indumento di gioco, si potrebbe considerare un gesto punibile. Forse in futuro si penserà ad ampliare la casistica degli indumenti che non ci si possono levare in campo. Da notare che queste cose, Collina specifica l'agenzia, le ha dette rispondendo ai detenuti del carcere di Massa, dove aveva partecipato a un incontro. Io credo che il posto più appropriato sarebbe stato invece un manicomio. Peccato che nel frattempo non siano più di grandissima attualità. Tocca a un ascoltatore che però precede, parmigiano, che però farei precedere dall'appuntamento classico di sembra ieri. Che cosa è accaduto nella storia dello sport il 16 dicembre? Sembra ieri. 16 dicembre 1979. A San Francisco gli Stati Uniti vincono la loro 26esima Coppa Davis, la seconda consecutiva, battendo in finale l'Italia. Il successo era arrivato matematicamente il giorno prima, in virtù della vittoria in doppio di Lutz Smith su Panatta e Bertolucci. Nell'ultimo giorno gli Stati Uniti riescono a conquistare anche i restanti due singolari, con i successi di McEnroe su Zuccarelli e di Gerulaitis su Panatta. Per la prima e tuttora unica volta nella storia delle finali di Coppa Davis, la nazionale vincente non concede alla squadra avversaria nemmeno un set. Anche questo è un bel ricordo pescato da Nicola Filippone. Se posso dire, scrive Andrea, Mauri fa faville contro Maldini, che ha 38 anni, ma contro l'Inter non ha visto palla, non trova. Ma insomma, intanto trovo che Maldini anni ne ha 40 e non 38. Altri tre Maldini domenica nella difesa del Milan e non finiva così, anche se si vede benissimo, si vede a occhio nudo che Maldini non è, cioè, è parente abbastanza lontano ormai di quello che è stato. A Mauri contro l'Inter non aveva visto palla, anche perché di palle non gli era arrivata mezza, e quindi insomma è sempre lì, cioè ci sono delle partite in cui il singolo non è abbastanza attivo, altre in cui il singolo risente del fatto che le forniture è quella che è. In Milan domenica un po' di gioco riusciva comunque a farlo, Shevchenko mi ha fatto un'impressione davvero penosa, a differenza invece di quella di Amauri e San Siro, per esempio, che mi sembra fosse un caso diverso. Tocca, dicevo, a un parmigiano che è Francesco. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Volevo fare una proposta riguardo alla Coppa Italia, insomma, una provocazione un po'. Sì. Visto che viene snobbata da tutte le grandi, no? da tanti anni, questa competizione, non si potrebbe assegnare al vincitore, alla vincitrice, il posto in Champions League oppure uno dei posti? Alla faccia della provocazione, Francesco, sarà 10 anni. Scusi, se ho sogghignato un po'. Vabbè, sono almeno 10 anni che questo è un tormentone assoluto, e probabilmente sarebbe l'unica strada effettivamente per ridare importanza alla competizione. L'unica strada, come dire, alla foce. Il modo vero sarebbe invece di andare alla sorgente, cioè sarebbe quello di riuscire a quello che c'è in Inghilterra, cioè di creare un interesse vero per una manifestazione e darle un prestigio che non nasca dal premio finale, in questo caso la qualificazione alla Champions, ma a qualcosa che nasce, che a qualcosa di intrinseco, che evidentemente non c'è verso di ottenere. Abbiamo sentito della possibilità, anzi dell'annuncio che Ancelotti ha già dato, che Kakà sarà in campo domenica. Sentiamo che cosa aveva detto ieri Kakà invece. C'è un'infiammazione della regione pelvica qua, quindi solo queste infiammazioni che dobbiamo farla passare adesso. Sicuro ci vediamo nel 2009, però cerco anche di far prima, vediamo, può passare domani come può essere 2 o 3 mesi, vediamo. Ma questa era stata la frase che aveva un po' destabilizzato, forse anche un po' terrorizzato il Milan. In realtà al momento sembra passata subito, e quindi sembra che la soluzione sia domani e non tra 2 o 3 mesi, poi si vedrà. Mi dia il suo punto di vista, scrive Carlo, sul fatto che Rivera ha accettato di andare alla cena del Milan. Tanti parlano di riavvicinamento, io non so. Ma riavvicinamento può essere pace lo escludo nella maniera più totale, conoscendo, se Dio vuole, Gianni Rivera. Io credo che sia stata un gesto di educazione reciproca, e cioè, visto che il Milan aveva ambientato la festa di Natale negli anni 60 e aveva invitato appositamente i più grandi campioni degli anni 60, Rivera ha accettato, il Milan ha ritenuto di non poter non invitare Rivera, e Rivera ha ritenuto di non poterci non andare, anche perché credo che conosco abbastanza bene Rivera da conoscere anche il suo affetto particolare per Dino Sani, visto che la società ha invitato appositamente Dino Sani dal Brasile, e che Dino Sani alla festa del Milan ieri sera c'era. Credo che questo sia stato un buon motivo per Rivera per accettare questo invito. Poi le curiosità magari sono altre: perché invitare Dino Sani dal Brasile, meritoriamente insisto, e non invitare Lodetti, che sta qua a 2 passi, ma questo è tutto un altro film. Pietro da Brindisi, buongiorno. Buongiorno, un doppio complimento: uno perché è piacevole sentirla e per lo spessore culturale che riesce a dare ad uno sport che è diventato molto, molto consumismo, e un altro complimento a lei e a Ottavio Bianchi perché avete rimarcato l'importanza del settore giovanile, del vivaio in senso generale. Io sono il papà di 2 giovanissimi e mi sto avvicinando al calcio per la prima volta adesso con loro. Ed è bello vederli giocare, ed è bello pensare, insomma, al ruolo sociale che può avere lo sport a livello giovanile. Che non diventino campioni o che lo diventino poco importa, però è importantissimo che ci sia il vivaio e che non succeda quello che è successo alla pallacanestro. Io vengo da quel mondo e lo sfascio un po' della pallacanestro, insomma, italiana a livello internazionale, io ritengo che parta molto da quello, dall'aver trascurato un bel po' il vivaio. E continui così. La ringrazio molto, davvero. La ringrazio affettuosamente, credo, le parole molto belle davvero, e mi pare particolarmente azzeccato anche il suo parallelo col basket. Per quel poco che ne so. Anche oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione. Appuntamento come sempre a domani.